Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 00 24 è il numero magico per parlare con l'elefante. Oggi parliamo di una cosa di cui sarebbe preferibile non parlare, nel senso che parliamo dell'immigrazione, parliamo dei respingimenti alla frontiera, parliamo del decreto sicurezza. Sicurezza e governo dell'immigrazione si confondono purtroppo nella legislazione nazionale, sono in atto i voti di fiducia che finiranno oggi alla Camera, poi si passerà al Senato e la legge contestata, discussa, drammaticamente discussa, anche con accuse molto, molto dure, molto aspre di razzismo, è lì che sta per essere approvata. Dico che si dovrebbe non parlarne in un senso molto semplice. Chi chiede aiuto perché ha fame o perché è oppresso e bussa alla tua porta, evangelicamente, dunque secondo l'unica verità culturale che ci riguardi da circa 2000 anni, deve essere semplicemente accolto. Deve essere accolto, deve essere rivestito, sfamato, bisogna dargli da bere e a quel punto bisogna trattarlo nel migliore dei modi possibili, cioè bisogna integrarlo. Se il suo destino è restare qui, bisogna integrarlo, fare il ricongiungimento con il resto della sua famiglia. Insomma, bisogna impegnarsi, una comunità, una società, un governo, bisogna impegnarsi per realizzare al massimo grado possibile l'accoglienza e l'integrazione di coloro che vengono da fuori. Punto. Che c'è bisogno di fare delle leggi? È già tutto scritto, diciamo, nella legge cristiana della nostra cultura. Purtroppo però è stato detto nel Cinquecento da Niccolò Machiavelli: gli stati non si governano con i paternoster. E aveva ragione, era sì un cinico, è ancora in dubbio, ancora si discute se era un profeta ateo e scristianizzatore del mondo oppure un grande filosofo della politica che aveva capito la modernità, cioè che la politica è diversa dall'etica, è autonoma dall'etica. Però quando ha detto non si governa con i paternoster, ha detto una cosa che anche secondo il nostro senso comune oggi ha un senso. Trattare la questione dell'immigrazione nel modo che ho detto prima, evangelicamente, come vorrebbero i pastori, i vescovi, la CEI, Monsignor Marchetto, che cosa significa? Significa praticamente abbattere le frontiere e aprire a qualunque tipo di flusso migratorio, questa è la sostanza delle cose, al di là dei formalismi, il nostro territorio. Il che implicherebbe poi degli squilibri, un disordine, diciamo, fatto anche di paure che qualcuno cavalcherebbe e naturalmente porterebbe probabilmente a un disastro. Non si può fare, concretamente non si può fare, non si può applicare il Vangelo integralmente. Bisogna trovare delle soluzioni pragmatiche che funzionino. La discussione è se mettere senza la galera, ma come aggravante per eventuali reati commessi, il reato di immigrazione clandestina è pragmaticamente una cosa utile o no. Se il respingimento in mare collettivo dei migranti serve o no a spezzare la catena schiavistica che li preleva nell'Africa subsahariana, nel Mali, negli altri paesi, e li porta qui senza speranza, senza... Allora, bisogna capire, funziona o no? È una cosa che è efficace o no al fine di governare questo processo? Naturalmente c'è un conflitto tra l'efficacia e i principi. Sì, magari è efficace, però c'è poi una quota parte, magari molto piccola, di persone che chiedevano asilo e che dovrebbero essere ammesse, e che dovrebbero essere ammesse secondo principi del diritto internazionale, che non vengono ammesse. E poi il clima che si crea nel paese, la cultura che il decreto sicurezza alimenta e nutre, sono tutti grandi problemi sui quali l'Italia francamente si divide. Io spero che non si divida come sta purtroppo succedendo regolarmente, con accuse abissali, perché l'accusa di razzismo è un'accusa abissale, anche se rivolta ai chiacchieroni, a quella parte chiacchierona della Lega che fa propaganda elettorale, che urla bingo bongo qui lì eccetera, insomma tutta quella cultura che c'è sempre stata poi nel nord. Ricordaci che nel nord non si affittavano le case ai meridionali a Torino, quando i terroni prendevano il treno diciamo, dell'occupazione e del lavoro. C'è sempre stata questa vena di paura, di difesa, diciamo, di un livello di reddito e di abbondanza conquistato. Bisogna vedere, insomma, ecco, io spero che non si arrivi a quel dibattito abissale e un po' finto, secondo me, in cui ci si divide culturalmente su basi di principio, e che invece si riesca a instradarlo in termini più pratici e pragmatici. Almeno qui nel nostro studio, dove è ospite Giuseppe Pisanu, senatore del Popolo della Libertà, presidente della Commissione parlamentare antimafia, ex ministro degli interni, quindi autorevole critico e revisore delle attuali politiche sull'immigrazione. Insomma, strategicamente l'alternativa a una gestione come quella dell'attuale ministro dell'interno Maroni. Abbiamo anche Gian Antonio Stella del Corriere della Sera, autore di tanti libri, alcuni dei quali, vabbè, il famoso La Casta, ma insomma alcuni dei quali dedicati proprio Lorda, dedicati all'emigrazione italiana negli Stati Uniti. Stefano Folli, che è il notista politico del Sole 24 Ore, che conoscete bene, e Livio Caputo, editorialista del Giornale. Bene, a Beppe Pisanu, ex ministro dell'Interno, come ricordo, 800240024, stiamo parlando di immigrazione, faccio una domanda semplice. Lui ha detto in un'intervista, in una bella intervista, limpida, chiara, di forte opposizione all'attuale politica sull'immigrazione del governo, opposizione non preconcetta, non generica, non cinica, opposizione di idee, diciamo, ha detto: l'Europa aveva il 17% della popolazione mondiale 100 anni fa, adesso ha il 7% e tra poco, nel 2050, sarà al 5%. Conclusione di Pisanu: siamo in pieno declino demografico e quindi anche economico e politico. Solo gli immigrati potranno salvarci. I numeri ci dicono che il futuro benessere degli italiani dipenderà dalla capacità di attrarre e integrare 300.000 lavoratori stranieri all'anno. Ecco, questo è veramente un punto di vista opposto strategicamente a quello di chi dice proteggiamoci. La mia osservazione è che senza una ripresa natalista italiana, cioè senza che gli italiani si rimettano a far figli e invece di evitarli in vari modi, dalla contraccezione all'aborto, a una cultura antinatalista, che è la cultura dei bassi investimenti e delle scarse strutture per la maternità, insomma, però la prospettiva che l'Italia diventi demograficamente un paese, lasciamo stare, multietnico, ma insomma multiculturale, in cui comunità disintegrate convivono, religioni disintegrate tra loro, sconnesse, convivono, e magari anche con una forte prevalenza di un'identità che non è quella storica degli italiani, io non è che a cuor leggero mi rassegnerei a questo tipo di declino. E non mi rassegno neppure io, ci mancherebbe altro. La cosa certamente più auspicabile è che le mamme o le donne italiane riprendano a fare figli. Con il contributo però, dei maschietti. Naturalmente. Resta però il fatto che allo stato attuale delle cose, ovvero facendo i conti sulla gente che oggi c'è e nasce in Italia, nei prossimi 30 anni noi dobbiamo mettere in conto l'acquisizione mediamente all'anno di 300.000 lavoratori per poter mantenere il tasso attuale di popolazione attiva, altrimenti c'è inevitabilmente il declino. Mi lasci ricordare ai nostri ascoltatori che oggi in Italia gli immigrati regolari rappresentano circa il 7% della popolazione e producono il 9,7% della ricchezza nazionale lorda. Certo. Il che vuol dire che se negli ultimi 20 anni noi non avessimo avuto immigrazione, oggi saremmo un paese molto più povero e molto più vecchio. Questi sono i termini concreti del problema. Come affrontarlo? Siccome per i prossimi 30 anni non si può sicuramente cambiare nulla, perché il bambino che ha un anno oggi sappiamo che sarà lavoratore fra 20 anni, fra 23, dipenderà dalla carriera di studi, sì, che questo ragazzo seguirà. Quindi i conti almeno per i prossimi 30 anni sono sicuri. Possiamo mettere certamente a calcolo modificazioni, un minor bisogno di manodopera, sì, tutto quello che si vuole, ma non c'è demografo in Italia che non riconosca che quello è il fabbisogno di lavoratori nel nostro paese. Allora, questo discorso vale per noi italiani, vale per noi europei. Certo. Per noi italiani ancor di più, perché abbiamo un tasso di natalità ancor più basso e notevolmente più basso, per esempio, della Francia. Certo. Che fare? Secondo me dobbiamo far di tutto per attirare i lavoratori di cui abbiamo bisogno e inserirli ordinatamente nel nostro tessuto economico e sociale, salvaguardando... La fermo per questo. Prego. Su questo piano non c'è divisione, perché a Treviso lo stesso Gentilini conosco che dice benissimo... levo le panchine dai parchi, sì. E la stessa classe dirigente leghista ha integrato, proprio perché è la classe dirigente dell'imprenditoria. Mi consenta, ma a Treviso l'integrazione l'hanno fatta soprattutto l'associazione industriale. Industriali, sì, vabbè, ma insomma Treviso è una città di cultura leghista e sostanzialmente in quelle zone nordiste impregnate anche di paure, le ville, la sicurezza, eccetera. Il problema non è quello di governare flussi seri di sostegno all'economia italiana e soprattutto, diciamo, che diano soddisfazione a questa fame di lavoro, di società, di ordine, eccetera, che c'è in questi paesi da cui l'immigrazione arriva. Il problema è l'immigrazione irregolare e il rapporto con il tema della sicurezza. Beh. Lei dice è sbagliato quello che si sta facendo adesso, sostanzialmente. Perché? Allora, abbiamo chiarito però un punto, perché se no sì, rischiamo di non intendere. Abbiamo chiarito che l'immigrazione sia una necessità, una necessità storica per il nostro paese. Adesso aggiungo... Anche se bisogna fare più figli e organizzare politiche nataliste, altrimenti c'è il rischio di un declino storico. Allora, la sicurezza. L'immigrazione clandestina è invece l'aspetto patologico della immigrazione e va combattuta perché genera illegalità, rende più difficili i processi di integrazione e a monte alimenta uno sfruttamento criminale spietato dei clandestini, nel quale entrano tra l'altro organizzazioni criminali sempre più potenti, perché l'affare sta diventando enormemente lucroso. Sì. Qualcuno addirittura sostiene che il fatturato complessivo del traffico di clandestini di esseri umani si avvicina a quello della droga. Ecco, per dire... Il respingimento alle frontiere, da questo punto di vista, inteso nel modo in cui è stato fatto adesso, cioè un accordo fra due stati, il pattugliamento congiunto, il soccorso in mare, in condizioni possibili e... Il respingimento alle frontiere non è che vengono ributtati sulla spiaggia come cani, vengono portati in centri di accoglienza dove ci sono i funzionari dell'ONU, quelli per i rifugiati, e il ministro Maroni propone anche di istituire lì dei centri per la definizione di chi abbia il diritto di asilo e che in quel caso viene accettato e riportato in Italia. Questa roba qui perché non è giusta per stroncare il traffico di esseri umani e per interrompere questa catena della disperazione? Anche qui una piccola preliminare precisazione. Prego. Gli immigrati clandestini che arrivano in Italia via mare sono grosso modo il 10-15% del totale dei clandestini che entrano nel nostro paese. Quindi rendiamoci conto di questo dato d'accordo. Di fatto. Allora, i respingimenti alla frontiera... Il governo Berlusconi, del quale io facevo parte, li ha fatti. Come li faceva? In base alla legge nazionale e alle disposizioni internazionali, facendo i respingimenti individuali, nel senso che... Sì, vabbè, ma voi li facevate arrivare in Italia e poi ne rimpatriavate alcuni. Quelli che riuscivano... avevamo stabilito... un accordo con la Libia in virtù del quale la Libia riconosceva una propria responsabilità per gli immigrati clandestini che erano partiti dalla Libia, benché quello fosse un paese di transito e non di origine del flusso migratorio. In questo modo veniva salvaguardato il diritto del clandestino a presentare domanda. Ultima domanda, poi passo agli altri ospiti, anche loro contribuiranno ovviamente alla discussione. Ma non dico, le mette in respingimento. Aspetti. La Lega dice, sì, no, ho capito, lei dice noi facciamo i respingimenti individuali. La Lega però diceva è inefficace la politica anticlandestini del ministro Pisano ed era molto polemica. E loro sostengono di avere i dati che dicono La polemica è anche legittima, sì. Ma allora i dati, eravamo a un quarto, a un quinto di immigrati clandestini via mare rispetto ad oggi. Uh-huh. Quello che io voglio dirle è che in realtà all'immigrazione clandestina e neppure a quella via mare, che è la forma più povera e più disperata di immigrazione clandestina, non c'è rimedio. Lei occlude un canale e se ne apre un altro. Il rimedio è una politica complessiva di immigrazione che consenta ai nostri paesi, voglio dire all'Europa e agli Stati Uniti, che saranno di integrare bene chi arriva, di governare e di l'immigrazione, far emergere dalla clandestinità. Di governare l'immigrazione regolare come strumento per combattere la clandestina. Le faccio un solo esempio. Se io faccio un accordo con il paese di origine del migrante e gli dico io accolgo ogni anno in Europa tanti immigrati del tuo paese, facilitiamo insieme le cose, li formiamo, gli diamo i rudimenti della lingua in loco, tu in cambio mi garantisci due cose: il controllo delle tue frontiere e l'accettazione di tutti i clandestini originati ovviamente dal tuo paese che io ti rimando a casa. Io non credo che questo possa funzionare col Mali, ma insomma comunque speriamo di sì. Ha funzionato. Beh certo, insomma, no. Ma quelli che affrontano il deserto stiamo parlando di un fenomeno che è destinato a durare almeno per i prossimi 100 anni e quindi è in un'ottica di tempi lunghi che ci dobbiamo muovere. E stia attento, stiamo parlando di un fenomeno che l'Europa finora ha gestito con assoluta ipocrisia, magari condannando l'Italia per forzature presunte o meno di carattere umanitario, ma guardandosi bene dal sostenere l'Italia che è frontiera esterna dell'Europa. Quegli immigrati vengono in Europa, non è vero Ferrara che vengono in Italia, di 100 clandestini che entrano nel nostro paese, 20 si fermano qui, 80 procedono per altre mete europee. Stella, la convince la filosofia politica di Pisano sull'immigrazione o la colpì? Sarà possibile evitare un dibattito a colpi di razzista, di insulti, di denunce ideologiche, eccetera? Com'è la situazione vera, secondo lei? Non lo so, perché per dire le cose che sta dicendo adesso, sulle quali concordo totalmente, Pisano si è preso dalla destra più accesa, chiamiamola così, il soprannome di Ali Abu Pisano, una cosa volgarissima di cui non esageriamo adesso. Ali Abu, Ali Babà, su, ma si può scherzare almeno sui nomi arabi? Non si può, non in questo contesto. Ma come no? Ali Abu Pisano è divertente, non è cattivo. Sarà divertente, però insomma non col carico di razzismo che c'è intorno. Sono d'accordo con Pisano e volevo aggiungere intanto una cosa, visto che si parla di, come dire, di destra e di cosa deve fare la destra. Vorrei ricordare una frase detta dal generale De Gaulle, che sicuramente comunista non era, nel rifondarolo neanche, e neanche della Caritas. De Gaulle dice, dopo la guerra, che occorre introdurre, lo cito testualmente tra virgolette, tratto dal libro di Sandro Rinauro, occorre introdurre nel corso dei prossimi anni con metodo e intelligenza, questo lo sottolineo io, con metodo e intelligenza, perché si tratta di governare, mica di prendere a tutti, con metodo e intelligenza, prosegue l'agitazione di De Gaulle, dei buoni elementi di immigrazione nella collettività in francese, al fine di mettere al mondo 12 milioni di bei bambini di cui necessita la Francia. Non gli passava neanche per la testa che fossero stranieri. Una volta che uno è entrato, si integra, fa il buon cittadino, se non è un buon cittadino sbatte in galera, e su questo siamo d'accordo tutti, non gli passava per la testa che fossero stranieri. Sì, sì, infatti no. Adesso la Francia ha un presidente figlio di un immigrato, esattamente come l'America ha un presidente figlio di un immigrato. Questo qui per confermare un punto che diceva Pisano. Ma la cosa che secondo me è più interessante ad andare a vedere un pizzichino indietro nella storia, neppure tanto indietro, è questa frase: credo che l'Italia non possa accettare di dare al mondo l'immagine di chi butta a mare qualcuno che fugge da un paese vicino, temendo per la sua vita, cercando salvezza e scampo in un paese che ritiene amico. Il nostro dovere è quello di dare temporaneo accoglimento a chi si trova in queste condizioni. Silvio Berlusconi, ANSA, 30 marzo 97. Cito un'altra frase di Berlusconi, 1 aprile 97, Repubblica. Ho studiato diritto della navigazione a suo tempo. So che nessuno può fermare navi civili in acque non territoriali. Non è previsto assolutamente un diritto di questo genere da parte di nessuno Stato. Silvio Berlusconi, Repubblica, 1 aprile 97. Quindi io mi domando adesso come funziona, perché ANSA 9 maggio 2009, cioè adesso, lo stesso Silvio Berlusconi dice che non c'è nessuno scandalo a respingere queste navi perché i clandestini vengono trovati in acque internazionali e quindi vale il nostro diritto di respingerli. Io confesso, non ci capisco niente. Bene, allora abbiamo stabilito che Berlusconi è capace di contraddirsi. Credo che non sia una notizia, ma naturalmente la accogliamo festosi. Immigrazione e sicurezza. Abbiamo ascoltato bene Beppe Pisano, una provocazione molto curiosa e interessante di Gian Antonio Stella. Adesso buttiamola un po' in politica. Folli, in Parlamento c'è questa situazione. Un centrosinistra molto compatto, direi, diciamo che denuncia il disegno di legge sulla sicurezza. Sulla questione dei respingimenti c'è invece una forte divisione che dimostra che poi non tutto è fazione in Italia. Ci sono Fassino, Rutelli, il sindaco di Torino Chiamparino, cioè tre pezzi grossi del Partito Democratico che, diciamo, sono più dalla parte di Maroni che dalla parte dei suoi critici. E dicono: questi accordi li abbiamo fatti anche noi, li ha fatti Amato, li hanno fatti i governi di centrosinistra, insomma il respingimento alle frontiere è una cosa legittima, naturalmente bisogna poi tentare di trovare una soluzione seria, di principio, valida per la questione del diritto d'asilo, che tra l'altro è un precetto costituzionale. E dall'altra parte c'è una divisione che vediamo ben rappresentata qui dalla testimonianza di Pisano, in parte anche dall'atteggiamento del Presidente della Camera, però una forte pressione che è sboccata nei voti di fiducia, insomma il decreto sta passando. La conseguenza, dice lei oggi nella sua nota politica, che è inevitabile leggere per chi si occupi di politica sul Sole 24 Ore, è che il duo Maroni-Bossi ha messo parecchio fieno in cascina in vista anche della sfida competitiva delle elezioni europee. Politicamente stanno vincendo il braccio di ferro i leghisti, secondo lei? Ma sì, io penso di sì. Intanto bisogna partire un po' da quello che lei, Ferrara, ha detto nell'introduzione, che mi sembrava un'immagine efficace, cioè lo scontro tra l'efficacia e i principi. Qui stiamo parlando infatti di questi due corni del dilemma. L'operazione che è stata fatta con questi provvedimenti sulla sicurezza e, diciamo, con i respingimenti in mare va nel senso di mandare dei messaggi politici in vista anche delle elezioni, soprattutto forse in vista delle elezioni, che siano chiari, ben definiti e che servono quindi sul piano elettorale, il che naturalmente non scandalizza perché la politica è fatta di passaggi elettorali, questo è evidente. Dall'altra parte che si sia creata una questione legata al rispetto di alcuni principi di fondo, anche costituzionali, come il diritto d'asilo, questo è evidente. Tra l'altro nella intervista e poi lo ribadiva anche stamattina il presidente Pisano nella bella intervista che ha fatto al Sole l'altro giorno, ha sottolineato che i respingimenti sono avvenuti nel corso della sua gestione del Ministero dell'Interno sempre sul piano individuale, e che naturalmente va d'accordo con la verifica del diritto d'asilo. Altri, anche nel centro-sinistra e nelle scorse giornate, invece hanno detto cose un po' diverse, hanno parlato di respingimenti fatti un po' così, un tanto al chilo, si parlava di frontiere terrestri naturalmente, non di frontiere marine, diciamo, non effettuati in mare, però io ho sentito insomma, vari esponenti di varie parti politiche, parlando anche diciamo di esperienze legate ai governi centro-sinistra, che parlavano invece di respingimenti un po' collettivi, insomma, perché non c'era troppo tempo di stare a verificare caso per caso. Eccetera. Sì. Quindi anche su questo bisognerebbe capire veramente se siamo di fronte a un fatto senza precedenti, che come tale pone una serie di questioni di tipo morale molto, molto importanti, oppure se invece siamo di fronte a una cosa che già si è verificata e che spiegherebbe anche il perché una parte del centro-sinistra, soprattutto voto Chiamparino, Fassino, anche Violante, Rutelli, eccetera, tutto sommato preoccupati della situazione elettorale nel nord del paese, soprattutto vanno incontro al punto di vista che la Lega ha rappresentato più di chiunque altro. Sentiamo Livio Caputo su questo punto. I respingimenti collettivi, che sono poi il punto intorno a cui è ruotato il rinfresco di feroci polemiche di questi giorni, sono diversi dalle strategie del passato? C'è una rottura simbolica quando Maroni convoca una conferenza stampa e dice per la prima volta noi abbiamo... E qui mi è saltato l'Explorer, la pagina web. Prego, grazie. Insomma, c'è una novità o no? C'è una rottura o no? Caputo. C'è sicuramente una novità nel metodo, ma io credo che bisogna inquadrare la situazione anche un po' storicamente. Noi ci stiamo sforzando, anzi abbiamo comprato a caro prezzo il diritto di pattugliamento delle coste libiche, da dove arrivano tutti questi immigrati clandestini dall'Africa. E che cos'è questo pattugliamento? È una forma di respingimento collettivo, e su questo erano tutti d'accordo. La trattativa è stata iniziata addirittura da Amato. Quindi il fatto di respingerli un po' più in qua, cioè un po' più verso le coste italiane, non mi sembra che rappresenti una novità drammatica. Vorrei anche dire questo, che è cambiata la situazione di fondo, cioè questi immigrati che arrivano dall'Africa hanno imparato, o col tempo, che chiedendo l'asilo politico, una volta messo piede sul suolo italiano, ottenevano comunque un permesso di soggiorno temporaneo, ottenevano dei sussidi, alcuni si sono addirittura trasformati in professionisti del diritto d'asilo, come questo gruppo di eritrei e di somali che sta mettendo sotto scacco il comune di Milano con delle pretese addirittura stravaganti. Quindi praticamente tutti quelli che arrivavano, una buona parte, quelli un po' più furbi, chiedevano diritto d'asilo. Ora la Convenzione di Ginevra su questo punto è molto chiara, anche se risale a tanti anni fa, è ancora in vigore. La protezione di questo tipo viene accordata soltanto a chi può dimostrare di essere personalmente perseguitato nel paese di provenienza e perciò ha avuto bisogno di andarsene. Ora, questo anzitutto è molto difficile da dimostrare, si possono raccontare anche delle balle alle commissioni, e poi se anche le commissioni decidono che il richiedente non ha diritto, questo è comunque già in Italia, può andarsi alla clandestinità, può tentare di andarsene in un altro paese di Schengen, quindi era un varco che si stava allargando e che con oltre 1 milione di persone persone in attesa di partire dalla Libia e 50 milioni, dico 50 milioni, censiti dall'Organizzazione Internazionale per l'Emigrazione come propensi a emigrare dai paesi dell'Africa subsahariana, qui bisognava mandare un segnale, cioè il segnale che in Italia non si entrava così facilmente, che insomma la legge veniva rigorosamente bene applicata. Bene, un attimo, sentiamo Marco da Palermo. Marco? Pronto? Sì, buongiorno. Pronto, salve. Dica, Marco. Allora, io volevo rivolgermi un attimo al dottor Pisanu fondamentalmente per una cosa. Io ascoltavo la vostra trasmissione fin dall'inizio e mi ha lasciato letteralmente sconvolto il discorso, l'analisi per cui, secondo Pisanu, praticamente non potremo fare nulla per i prossimi 30 anni. Questo cosa vuol dire? Io adesso chiamo da Palermo, di anni ne ho 29. Considerando che l'attuale classe politica, sia di destra che di sinistra, attenzione, il mio non è un discorso politico ma semplicemente sociale, ha negli ultimi 10 anni distrutto, massacrato, violentato quello che è il mondo del lavoro, automaticamente tagliando fuori quella che è la mia generazione per ciò che riguarda la possibilità di farsi una famiglia, una casa, un futuro, quel che sia, in maniera solida e stabile. Per cui poi, visto questo fatto, non possiamo lamentarci del fatto che non ci sono più bambini. Ciò cosa produce? Produce il fatto che se non solo io sono stato condannato senza avere colpa a non poter avere materialmente un futuro stabile, in più mi devo sentir dire da un esponente dell'attuale governo che per i prossimi 30 anni non se ne potrà fare nulla, per cui a questo punto mi si sta letteralmente condannando. Ho capito, ho capito. È molto chiara la sua obiezione, Marco. No, no, grazie. Cioè, Pisanu, prego. No, una risposta e poi chiedo scusa. Probabilmente mi sono espresso male. Cioè lui dice invece di dare stabilità. Sì, ma l'assetto demografico del nostro paese è già determinato dallo stato attuale delle cose. È certo che per i prossimi 30 anni noi non avremo la natalità necessaria per coprire il fabbisogno di nuova forza lavoro che ci consenta di mantenere l'attuale però, tasso Pisanu, di attività. Noi stiamo facendo un discorso, adesso devo dare le strade in diretta, ma è curioso, no, perché c'è il destino geografico. Cioè, l'Italia è un molo che si affaccia sul Mediterraneo, si protende verso l'Africa e le coste africane, e noi abbiamo il destino geografico di essere il paese di prima accoglienza. E poi abbiamo un destino demografico, che è quello di dover ospitare 300.000 immigrati l'anno, a prescindere da quelli regolari, dalle quote, con una quota parte di clandestini legata al destino geografico. Cioè, noi dobbiamo rassegnarci, questa è la sostanza, ma è una politica la rassegnazione? No, la rassegnazione non è assolutamente una politica. È chiaro che quando parlo di forza lavoro supplementare che deve venire in Italia, do per scontato che tutti gli italiani abbiano una loro occupazione, e non è del resto un caso che oggi gli immigrati coprano tutti spazi di lavoro, diciamo così, lasciati liberi dagli italiani, perché raccolgono mele in Trentino, mungono mucche in Padania, e però raccolgono anche pomodori nella disoccupatissima Campania. E così via, perché potrei continuare citando le concerie, gli altiforni, certo, e tutti i lavori disagevoli. È un nostro destino? No, il nostro paese deve fare di tutto per darsi una politica demografica all'altezza di questa situazione. Certo. Bisogna governare di questo, ciò che c'è, di non questo ciò problema. Che si vorrebbe, beh, certo. Certo. Gian Antonio Stella, mi appello al suo senso dell'ironia. La democrazia schiavista è il titolo editoriale di oggi di Piero Sansonetti nel nuovo quotidiano di sinistra L'Altro. E in generale noi sentiamo in questi giorni, diciamo, spendere l'accusa di razzismo, definizione come presidi spia, medici spia, insomma sentiamo spendere qualcosa di molto importante, secondo me con una certa facilità. Non è che siamo di nuovo un paese poco serio, poco maturo, che non sa anche politicamente, sia pure nella dialettica, nel conflitto tra posizioni diverse, governare i suoi problemi e quindi si rifugia in una furente battaglia ideologica di cui non esistono le basi, perché io non penso che la nostra sia una democrazia schiavista e che i respingimenti di Maroni siano un atto razzista. Sì, io... Dio ci scampi dal cadere in una guerra di questo genere, perché non ne usciamo. Credo anch'io che sia stata giustissima la citazione prima di Treviso. È verissimo che alcune battute assurde, scellerate, abbiano fatto intendere alcune cose. In realtà poi il Veneto e Treviso in particolare sono molto più accoglienti di quanto si immagini. Le forzature su questo tema mi sembrano assurde, per questo mi fa piacere sentire da tutte le parti insomma, non c'è una ricetta tutta di destra, una ricetta tutta di sinistra. Questo è un bene, perché il tema è complicato, è complicatissimo, è venuto fuori anche questa mattina. Allora, qual è il tema? Allora, non possiamo accogliere tutti, e questo è fuori discussione. Anche Pisano, quando dice che dal punto di vista economico questa è la situazione, del resto il libro di Dalla Zuanna, La rivoluzione della culla, lo dice in modo molto chiaro: non c'è scampo, punto e basta. O si mettono i ragazzi padani a mungere le vacche anche di Natale, oppure, se vogliamo tenerci il parmigiano, ci dobbiamo tenere anche gli indiani che mungono le mucche. Fine. Detto questo, è chiaro che va gestita la cosa, assolutamente, non possiamo prendere tutti, è impossibile, non possiamo prendere tutti, però allo stesso tempo non possiamo respingere tutti, qualcuno ce lo dobbiamo prendere, certo. E ce lo dobbiamo prendere perché è fuori discussione, ce lo dice la legge, chi è in fuga, se un cattolico è in fuga al Sudan, cito un tema che è particolarmente caro in questo paese, ma se un cattolico è in fuga dal Sudan o dalla Somalia, dove c'è la pena di morte per chi si converte dall'Islam al cattolicesimo, cosa devo fare? Lo butti indietro assieme agli altri? Perché questo è, credo anch'io che la soluzione sia quella di campo per campo in Libia andare a vedere chi ha diritto e chi non ha diritto, almeno fare una preselezione, però per farlo bisogna che i campi libici siano aperti, e non è possibile invocare il controllo nei campi libici quando al momento in tutta la Libia, dove ci sono probabilmente 25 campi, ma manco quelli si è riusciti a censire, campi da cui l'85% delle donne arriva violentata, lo dicono l'altro ecco, giorno. Ecco, per esempio, quella secondo me è una cifra così. Vabbè, tu dici 85, io dico il 150%, è chiaramente una cretinata, no? D'accordo. Come l'85%. Le testimonianze sono concordi, sono tantissime le donne violentate. Non è possibile, dico io, invocare questo discorso, cioè lo facciamo in Libia finché non si è messa su una rete là, e questa rete là non c'è, perché al momento c'è un solo, dico uno, funzionario, uno a Tripoli, e c'è da lunedì scorso. Questo è il tema. Quando ci sarà la rete, viva questa politica di respingimento. Va bene. Se non c'è la rete, c'è una possibilità di ingiustizia. Mi faccio chiedere una cosa. Grazie, Stella. Mi faccio chiedere una cosa a Folli. Hanno un futuro le posizioni di Chiamparino, Rutelli e Fassino, che si distinguono dall'assalto contro il decreto sicurezza e le politiche di immigrazione del governo, nel senso che almeno sulla questione dei respingimenti collettivi sono favorevoli, hanno un futuro politico nel Partito Democratico, riusciranno a filtrare, assorbire e far corpo con il resto delle posizioni di quel partito e dell'opposizione? Io sono convinto che abbiano un futuro, perché la politica è capacità a un certo punto di raccogliere il consenso, certo è anche capacità di difendere i principi della nostra civiltà giuridica, questo è evidente, però non riesco a immaginare come il centrosinistra possa divorziare completamente dal senso comune, del sentimento che è prevalente soprattutto nel nord del paese, perché insomma è chiaro che non si può immaginare di governare l'Italia senza interpretare i sentimenti del nord, quindi io penso che abbiano un futuro per ragioni di fatto, per ragioni obiettive, come poi si caleranno all'interno, diciamo, della dialettica interna a quel partito, che oggi mi pare un partito in grandissime difficoltà, questo lo vedremo presto, lo capiremo meglio. Grazie. Beh, Pisano, le faccio una domanda di un cinismo assoluto, ma per capirci bene. Voi avete vinto le elezioni per via fondamentalmente del massiccio schieramento a vostro favore dell'elettorato del Nord, che è in grande maggioranza favorevole a una linea, diciamo, più dura, insomma, ecco, che, verso gli irregolari, gli immigrati clandestini. Sono paure sociali diffuse, comprensibili, non devono essere cavalcate in modo belluino, ma esistono. Come fate a... La sua linea sembra una linea che perfino un presidente della provincia di sinistra, democratico come Penati, perfino appunto un Chiamparino, perfino un Fassino avrebbe forse dei dubbi ad abbracciare un'alternativa strategica così forte allo sforzo su immigrazione e sicurezza di indurire la posizione del governo e stringere le maglie, diciamo, che hanno consentito l'immigrazione clandestina in questi anni. Ma guardi, io credo che gli elettori del Nord, verso i quali personalmente coltivo la più grande attenzione, chiedano soluzioni non emotive, non contingenti, ma stabili e durature. E io credo che la soluzione che noi dobbiamo proporre a tutti gli italiani è quella di un pattugliamento, possibilmente europeo, delle acque libiche, ovviamente governato nella sua sovranità dalla Libia, che consentirebbe in maniera del tutto naturale a quel paese di respingere nelle proprie acque territoriali, cioè in casa sua, verso le coste, imbarcazioni che se ne fossero staccate abusivamente. Resterebbe da risolvere il problema delle domande d'asilo, perché in quel caso sarebbe logico che la richiesta d'asilo venisse rivolta alla Libia. Ma se c'è un accordo tra la Libia e l'Europa, a quei clandestini aventi un qualche diritto all'asilo, si potrebbe dire presentate domanda d'asilo per qualsiasi paese europeo, già che l'Italia è una frontiera esterna dell'Europa, non certo, è altro. Certo. Bene, grazie Presidente Pisanu, grazie a Gian Antonio Stella, a Livio Caputo e a Stefano Folli. Abbiamo cercato di fare il nostro dovere in una situazione molto gridata, senza gridare anche noi. Grazie a tutti, in redazione Franca Fossati e Gloria Guerrera, Alessandro Chiappini e Giorgio Mattei in regia, Linea GR, poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0 in diretta dalla Fiera del Libro di Torino. Grazie, a domani.